chiaro è il mattino che nasce dall'est, questa foresta è tua. Selvaggio, puro nell'anima, non sai paura cos'è, quei cavalieri simili a dei, non li hai mai visti. Sacro nome.